le braccia lunghe non gliela fanno più. Sopra i mezzi di trasporto mi piego nelle curve come un bambù. Mi alzo a notte fonda, mezz'ora per vestirmi e volo via. Salendo sul vagone con quelli della mia categoria. La noia delle facce incontrate mille volte sopra il bus. La rabbia di aver speso tra spinte e comitate la gioventù. La borsa tra le gambe, i fiati sulla bocca ed il via vai. Sapone non l'hanno visto mai. Fatti forza a pendolare e consolati perché siamo tutti quanti chicchi dentro un macina caffè. Fatti forza a pendolare, forse un giorno pure tu potrai correre e sbalzare dentro un auto tutta blu. Arrivo spesso tardi, a volte di mezz'ora anziché no. Il capo che ti chiama, da lui sentirsi dire la multerò. Sentire nella gola il soffio del veleno che scende giù. E mentre accampi scuse, perché veramente non ne puoi più. A volte penso a Giobbe che sopportò per tanto e poi spottò. Ma come dovrei fare se la pazienza sua io non ce l'ho? E inghiotto rospi verdi pensando alla pensione che quando arriverà. Mi farà certo sentire come una vecchia scimmia in libertà. Mettendoci due ore, forse più. Apri la scatoletta, un'insalata russa e mai un ragù. Toccarsi a letto presto, il segno della croce e poi dormire. Così dimenticare che con questo triste andazzo da morire. Le voglie sessuali che rodono il mio corpo ma poi si sa che il sonno e la stanchezza sanno vincere perfino la voluttà. Tra le braccia di Morfeo io cado finché all'alba mi tiro su. Per vivere una vita che non è certo vita ma schiavitù.